Noi da novembre più o meno eravamo in trattativa con la giunta comunale, con le assessore al patrimonio, ai servizi sociali e alle pari opportunità, però questa trattativa si era un po' rallentata, cioè dopo gennaio non abbiamo avuto più notizie e loro dovevano darci una risposta, perché noi abbiamo presentato una memoria in cui spiegavamo come intendevamo risolvere noi questo problema del debito di circa 800.000 euro. Noi in questa memoria dicevamo che debito, ma anche che vantiamo un credito nei confronti del comune di oltre 550.000 euro e quindi pensavamo che questo credito ci doveva essere riconosciuto a saldo, portando tutto il materiale che lo dimostrava, e inoltre avremmo pagato una maxi rata iniziale e poi il resto con rate di 3.000 euro al mese. E dopodiché invece è successo che loro non ci hanno risposto, ma noi abbiamo tentato più volte di avere una risposta, fino a che non è arrivata questa relazione della Commissione delle Lette, anzi della Presidente della Commissione delle Lette, totalmente sbagliata secondo noi, perché dimenticava che c'era una trattativa in corso e che noi avevamo presentato una relazione. Inoltre questa relazione non era stata votata dalla Commissione. Lei, incurante di ciò, ha presentato una mozione in Consiglio Comunale che, contro ogni aspettativa, perché nel frattempo era ripresa la trattativa, oggi abbiamo infatti la riunione di trattativa, è stata votata questa mozione che praticamente, senza dirlo esplicitamente, chiede una cancellazione della Casa Internazionale delle Donne. Ora, la casa è un luogo non solo simbolico per Roma ma per tutta Italia, è anche un valore internazionale, da noi vengono da tutti i paesi del mondo, quindi è una posizione assurda. Una posizione assurda che tra le varie conseguenze potrebbe provocare anche la perdita di 17 posti di lavoro. Assolutamente, noi abbiamo varie dipendenti, alcune dipendenti direttamente da noi, che sono le dipendenti dell'ostello e della segreteria, e altre dipendenti del ristorante, che è gestito da un'associazione di donne che è nata perché noi abbiamo promosso questa associazione. Quindi certo ci sono 17 posti di lavoro in gioco, che non sono pochi. Oggi pomeriggio avrete un sit-in, ma prima anche degli incontri? Dunque, stamattina abbiamo avuto una conferenza stampa al Senato e invece oggi pomeriggio alle 6 abbiamo la ripresa del tavolo di trattativa con le consigliere Castiglione, Baldassarre e Marzano, e poi da questa vedremo cosa succede. Nel frattempo abbiamo ricevuto da tutta Italia messaggi di solidarietà di tutti i tipi, e anche la regione Lazio c'è molto vicina, così come c'è molto vicino il primo municipio, cioè siamo contornati da una grande solidarietà. Abbiamo di fronte, però non sappiamo cosa diranno queste oggi, per cui... Però la regione ha detto che è pronta a fare la sua parte, questo può essere un elemento che può aiutare la trattativa? Noi lo speriamo, la regione ci è stata vicina in molti modi, anche prima già c'è stata una delibera con cui sono stati assegnati dei fondi alla casa, proprio perché noi potessimo pagare anche questa maxirata, aggiunta a quello che ha fatto il manifesto per noi e ad altri soggetti privati. E inoltre hanno fatto una delibera così molto bella che ne riconosce soprattutto il ruolo politico, perché questa è una questione fortemente politica. Diamo una riduzione sostanziale di questo affitto, anche perché c'è una nuova legge, la legge del terzo settore, che prevede addirittura canone zero per chi fa attività sociale. Quindi noi chiediamo semplicemente l'applicazione della legge. Tra l'altro, nella prima delibera di Costituzione si parlava di un affitto ricognitivo, che vuol dire fuori dalle logiche di mercato, mentre questi rivendicano una logica di mercato, peraltro, a mio avviso, che sono un economista, non giusta, perché quando un bene è fuori dal mercato, come lo sono i beni storico-artistici, non si può parlare di leggi di mercato, perché il bene è fuori dal mercato. Però lo siamo anche una ricchezza, perché noi diamo alla città flussi finanziari importanti, ogni anno noi paghiamo tasse, tasse, imposte, salari per un valore di oltre 350.000 euro l'anno. Questo a fronte della quella quota di affitto che non paghiamo, perché noi una parte la paghiamo. E la vostra sensazione nei confronti appunto della maggioranza, insomma del 5 Stelle, è che manchi una sensibilità verso questi temi? Dove sta la ragione politica? Sì, noi pensiamo che questa sensibilità sia un po' assente, ma perché ci sono delle false logiche, c'è la falsa logica di una legalità che noi non mettiamo in discussione. Noi siamo stati considerati un presidio antimafia, quindi voglio dire, parlare di legalità perché non si paga una quota dell'affitto mi pare un po' esagerato. Hanno questa logica dei bandi, ma noi siamo ancora in convenzione e poi siamo state noi a richiedere di affrontare questa questione del debito, perché noi vogliamo risolverlo, ma vogliamo risolverlo nei modi giusti, non fantasiosi come ci vengono prospettati ogni tanto.